E allora ben trovate, torniamo in diretta. Questo è sempre il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Il mini pimer di quest'oggi, come annunciato, riguarda la lotta contro i CIE e diciamo l'abbiamo intitolato appunto riflessioni di genere e di classe sui CIE. Sì, certo, perché questa vuole essere una trasmissione di un esercizio di memoria. Cioè riteniamo molto importante ripercorrere il percorso della creazione di quello che sono stati, di come sono stati creati i CIE, perché nessuno e nessuna poi possa dire non sapevo, non credevo, non pensavo. Allora, come prima cosa ricordiamoci che i CIE sono stati creati come CPT con la legge 40/1998 turco-napolitano. Ce n'è per tutti. Primo governo Prodi, Giorgio Napolitano ministro degli interni, Livia Turco ministra della solidarietà sociale, Luigi Berlinguer ministro della pubblica istruzione, Pierluigi Bersani ministro dell'industria, commercio e artigianato, Tiziano Treu ministro del lavoro e della previdenza sociale, Rosi Bindi ministra della sanità, Walter Veltroni ministro dei beni culturali. La legge fu approvata con votazione ad appello nominale e votò a favore anche il partito della Rifondazione Comunista, compreso l'attuale segretario di SEL, Nichi Vendola. Allora, questo perché? Perché poi la legge fu inglobata così com'era nella Bossi-Fini. E la Bossi-Fini ha portato delle modifiche ancor più reazionarie, però è stata inglobata, la Bossi-Fini non ha sostituito la turco-napolitana. Ha trovato una base perfetta per andare avanti. Dopodiché i pacchetti sicurezza hanno completato l'opera, perché hanno reso reato la clandestinità e hanno portato la detenzione all'interno dei CIE da 2 mesi a 6. Ci ricordiamo sempre che adesso dal giugno di quest'anno sono stati portati a 18. Com'è, si rincorrono, una scalata, chi più chi più. Allora, una cosa importantissima da ricordare e comunque da definire è questa, che è stata la turco-napolitano a introdotto nel diritto italiano il concetto di detenzione amministrativa, che è molto grave perché è un vulnus nel diritto, cioè chiunque può essere internato non perché ha commesso un reato ma perché è in una condizione. Questo tipo di detenzione, e non per reato ma per condizione, diciamo nel nostro diritto è una novità e quindi appunto è una cosa molto grave, però ha dei precedenti, cioè nel diritto tedesco per la prima volta è stata creata la detenzione di questo tipo per condizione non per reato negli anni 40. Infatti si chiamava Tatelschuld, il reato d'autore, il reato per il modo di essere. E infatti i nazisti su questa base crearono dei campi che non, da non confondere con i campi di internamento, ma i campi di concentramento, ma i campi di internamento, in cui si era rinchiusi e rinchiuse per una condizione. E furono creati anche per sole donne. Appunto vedo la parola asociali, che appunto le donne e la socialità hanno un legame effettivamente molto stretto. Nel 1941 appunto i nazisti, come dici tu, costruiscono in Germania il campo di internamento di Uckermark, campo per sole donne e giovani ragazze. C'è stata una bella mostra di questo campo di Uckermark, insomma anche qui a Roma, si chiamava Campo di Protezione Giovanile. Le prime 70 ragazze furono imprigionate nel 1942, inviate per la maggior parte dai servizi pubblici sociali, etichettate come appunto asociale, uno stigma non definito che si riferiva a qualsiasi comportamento contraddicesse le regole, quindi ribellione, fuga dai servizi sociali pubblici, far parte della resistenza, essere semplicemente figlie o sorelle. di chi ne faceva parte, andare a ballare, violare il divieto per quanto riguardava gli alcolici, uscire la sera, appartenere ai gruppi di giovani che si opponevano al nazismo, avere contatti con ebrei e ebrei, con lavoratori o lavoratrici straniere e stranieri, non far parte della gioventù hitleriana, essere libertine, prostitute o lesbiche. Nel 43 vi furono deportate anche donne rom e sinti e le partigiane slovene. No, utilissimo per dare un'idea, insomma, sì, della... è molto importante, perché il concetto di detenzione amministrativa adesso è applicato e ne fanno le spese i migranti e le migranti che sono senza permesso di soggiorno, sono considerati per svariati motivi irregolari, no? Però nulla toglie la possibilità che la detenzione amministrativa venga usata, quando ormai è passato il concetto, per qualsiasi situazione che non sia gradita al sistema. E noi donne siamo ad altissimo rischio, perché a parte il fatto che da tanti segnali all'interno del pacchetto sicurezza, cioè per esempio dell'ultimo, è stato addirittura creato un elenco in cui dovrebbero essere inseriti i senza tetto, senza fissa dimora, cioè sono tutte soggettività che possono, ad alto rischio, per esempio le prostitute, no? Tutte le donne non omologate a vario titolo, mm-hmm. Tutte soggettività, non parliamo poi dei dissidenti, delle dissidenti, di quelle che fanno, tutte soggettività che possono essere internate per il modo di essere e quindi non per un reato, no? È un concetto che è un trascinamento di fatto dallo stato di diritto allo stato etico. Eh sì, pericolosissimo. L'hanno, come al solito, diciamo, preparato con queste campagne mediatiche che poi hanno, diciamo così, steso il tappeto rosso al famoso pacchetto sicurezza, che lo abbiamo analizzato anche molto nel, certo, dettaglio, non solo noi ma anche altre tante altre trasmissioni della radio l'anno scorso, e insomma, comunque, appunto, porta con sé tutto questo tipo di degenerazioni preoccupanti, appunto, non, certo, solo poi per i cosiddetti asociali asociale ma diciamo, ecco, non crediamo di essere fuori dal giro, insomma, esatto. No, sappiamo bene, oltretutto, questa è una società che ha praticamente ha criminalizzato e sta criminalizzando una miriade di comportamenti personali, no? Cioè ma al di là di quelli dovuti alla povertà, cioè il fatto di dormire sotto i ponti, di fatto di mangiare per strada e dormire sulle panchine, ma anche quelli di, non so, schiamazzare la sera, non parliamo di scrivere sui muri che ti sparano, sì, a vista, quello Veltroni poi, cioè, particolarmente, no, attento, sì, sì, è stato all'amministrazione di centro, anzi la mitica Bologna è stata la prima con Cofferati, lo sceriffone beh, del resto nessuno come loro, i famosi esercizi di memoria, no? Esatto. Che una si porta dietro, vedi, dovremmo aprire una rubrica, esercizi di memoria. Quindi che cosa succede? Che il CIE in effetti salta agli occhi che non è uno strumento soltanto razzista, perché in effetti il razzismo è insito in una struttura come questa, però è uno strumento altissimo di controllo sociale. Allora, nel momento in cui è uno strumento altissimo di controllo sociale, cercare di scardinarne la struttura e l'essenza diventa una lotta politica che può dare molto fastidio, no? Sì. Facciamo un piccolo stacco musicale. Su questa frase molto efficace. I want to buy. E allora sì, stiamo parlando appunto dei CIE, facciamo una serie di riflessioni di classe e di genere e anche un po' di ripasso così della storia, certo, diciamo, dei CIE, perché è sempre utile, arrivando però al presente, diciamo che non mancano nel territorio italiano queste strutture. Ce ne sono in funzione 13, dislocate un po' in tutte le regioni. Però alcune regioni sono sguarnite, come la regione Toscana, e infatti le amministrazioni locali si agitano moltissimo per poterne costruire qualcuno. Non solo, ma le amministrazioni locali della Toscana hanno detto che non è il caso di fare un CIE in ogni regione, come in effetti grosso modo c'è adesso, perché sono a Bari, Bologna, Caltanissetta, Catanzaro, Gorizia, Milano, Modena, Roma, Torino, Trapani, Brindisi, Lampedusa, Crotone, ma di farne uno in ogni provincia, perché così si possono fare i più piccoli e a misura umana, dal volto umano. Perché questa è l'altra, diciamo, retorica di cui ci infarciscono, ma insomma l'abbiamo detto tante volte, lo ripeteremo ancora e anche in questa trasmissione, non è che c'è molto da riformare dentro un dispositivo del genere. Non insomma, ci sono CIE dal volto umano. Tanto è vero che qui a questo punto si impone una riflessione, no? Cioè l'antirazzismo è un concetto molto importante, una lotta in cui tutte dobbiamo impegnarci, e chiaramente se ne siamo consapevoli. Però trascinare il problema dei CIE soltanto sul problema del razzismo è estremamente fuorviante. Cioè c'è tutta una parte della sinistra istituzionale, paraistituzionale, partiti e partitini che si preoccupano, quando se ne occupano, perché intendiamoci, se ne occupano anche molto raramente, però quando se ne occupano si preoccupano di cosa può mangiare un internato, come viene tenuto, quanto può telefonare all'esterno, quanto non può telefonare all'esterno, le condizioni igieniche, ci sono i topi, non ci sono i topi. Allora, per carità, nel senso che tutte queste cose sono addirittura di livello di diritti umani fondamentali. Però trascinare la lotta su questo piano e solo su questo piano è estremamente fuorviante, perché il CIE è uno strumento essenziale di controllo di questa società. E anzi, che cosa succede? Che facendo una lotta solamente razzista o antirazzista, si pensa, si fa credere alla gente che ci si occupa dei CIE, che si lotta contro i CIE, mentre non si tocca l'essenza della loro funzione. Quindi diciamo che la lotta sui CIE investe tantissimi piani, dal controllo sociale a quello del controllo del lavoro, a quello del controllo dei corpi, a quello del controllo delle frontiere, a quello del controllo, cioè della addirittura della strumentalizzazione di queste lotte in funzione della sicurezza interna ed esterna, si fomenta il razzismo, si mettono i poveri contro i poveri, i piani sono infiniti, perché i CIE sono proprio uno strumento di controllo di questa, all'interno di questa società. Noi abbiamo preparato, ma io ti ascoltavo e non l'ho fatto ancora, una telefonata con una compagna appunto di Milano, e magari mandiamo un brevissimo stacco musicale e poi ci colleghiamo direttamente con lei. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4! Oh! E allora sì, torniamo in diretta, come annunciato, insomma, il tempo di chiamare Soriane, ci senti? Pronto? Sì, pronto. Ciao, ben trovata. Ciao. Ciao, ciao a tutte. Senti, allora, ci metti un po' al corrente della situazione lì a Milano? Che cosa succede? Allora, sulla situazione di Milano è cambiato un po' da circa un anno fa la situazione, perché penso che, come tutti sanno, dall'ottobre dell'anno scorso hanno tolto l'utilizzo del cellulare all'interno di via Corelli, e chiaramente questo ci ha difficoltato molto la situazione a livello di contatti, ma comunque non abbiamo mollato, perché tramite i parenti o a volte riusciamo a sentirli anche tramite la cabina telefonica, e la situazione qua è sempre più difficile, no? Perché la cosa che ci viene sempre raccontata sono i soprusi che vengono vissuti all'interno, a livello delle perquisizioni che fanno notturna, a livello delle violenze in relazione alle persone che sono all'interno, quando arrivano a fare queste perquisizioni per ricercare e trovare delle cose all'interno, in genere la gente comunque viene picchiata, c'è una situazione molto pesante. Nell'ultimo periodo, da settembre, sono iniziate le diverse rivolte, non so in Corelli, ma nei diversi CIE, e poi quella grandissima anche a Lampedusa. Qua a Milano, dopo questa rivolta che è stata molto grande in seguito alla sommossa che hanno fatto, Naeb e Mohamed sono stati processati, condannati a 8 mesi. E adesso sono tornati all'interno del CIE. Infatti, come è stato richiesto da Naeb, lui voleva tornare in Tunisia e questo è stato fatto. Dopodiché siamo riusciti, dopo un anno e mezzo, a fare un presidio davanti alle sbarre di Corelli, dove è stata molto partecipata, anche dall'interno si sentivano le urla, che a dire, si continua a fare un lavoro di solidarietà e fare da megafono all'esterno, perché la gente sappia quello che succede all'interno dei CIE, e abbiamo organizzato anche una rassegna nel quartiere di Via Padova, dove è un quartiere dove vivono tantissimi immigrati, dove abbiamo proiettato uno in particolare che si chiama Illegal, che è la storia di questa donna russa che viene a immigrare in Belgio con il figlio, e vi consiglio a tutti di vederlo, perché ci racconta esattamente quello che succede non solo in tutta Europa, no? All'interno dei CIE. Senti, questa è la situazione. In questa settimana, sempre tramite i parenti, abbiamo saputo che ci sono stati altre percosse e la situazione è sempre tesa. La cosa bella degli ultimi periodi sono le evasioni, no? Che finalmente riescono a uscire di questi posti, che sono veramente allucinanti, perché come in tutte le città la cosa che vogliamo non è migliorare questi posti, perché noi consideriamo che questi posti siano invivibili, non devono esistere, e dopo che hanno aumentato a 18 mesi queste rivolte, sì, queste evasioni sono aumentate tantissimo. Certo. Senti, noi qua sì. Senti, che avete una qualche risposta, per esempio, dalla comunità, dai migranti che stanno fuori? Allora, a livello di comunità no, io ti dico, a livello di quartieri la gente, quando si è fatta anche questa rassegna, è stata molto partecipata, la gente è comunque molto incazzata per l'esistenza di questa cosa, ma a livello di comunità non c'è un movimento specifico contro questi posti, no? Certo. È più la gente comune che comunque ha avuto un parente, un amico che è stato all'interno di questo posto, e comunque c'è un'attenzione molto particolare su questo. Certo, no, ma infatti il problema di far sapere comunque le cose fuori, di mantenere il contatto fra fuori e dentro, è fondamentale, infatti. È uno dei mezzi più importanti che poi abbiamo adesso per portare fuori la problematica dei CIE. Sì, è chiaro, anche per poter collegare con quelli che agiscono all'interno di questa struttura, no? Come il ruolo della Croce Rossa, piuttosto che Misericordia, piuttosto che la Sodexo che fornisce il cibo all'interno, perché i soprusi che vengono fatti all'interno, non solo dalla parte della polizia, guardia di finanza, certo, militare, perché qua abbiamo tutti i corpi all'interno dei CIE, anche di queste, sia della Croce Rossa sia della Misericordia. Chi c'è a Milano? CIE, che sono complici con tutto quello che succede all'interno. Senti, a Milano chi c'è? Qua a Milano c'è la Croce Rossa che gestisce il CIE e la Sodexo, che è quella che fornisce il cibo, che tra l'altro fornisce in diverse aziende notte a Milano, e che dopo tutto il scarto, il cibo scaduto, va all'interno del CIE di Corelli. Certo. Bene, allora noi ti ringraziamo tantissimo e comunque auguri di buona lotta. E c'è qualche problema all'audio. Aiuto. Pronto, senti una interferenza? Sì, sì. Pronto? Sì, la sentiamo. Pronto? Sì. Va bene, direi che... Una unica cosa che volevo aggiornare su questo è che a Milano non c'è più la sessione femminile, perché è stata, tutte le donne sono state trasferite a Torino, unica rimasta è la sessione delle trans all'interno di Corelli, e che anche lì all'interno di questa sessione succedono molto spesso delle rivolte, e loro dicono che subiscono tantissima violenza della polizia. Sì, ci abbiamo un'interferenza, non so da che cosa la senti. Proviamo casomai a richiamare Soriane. Ma infatti allora, io sento anch'io. Chissà, ci stanno ascoltando un po'. Basta che accendono la radio, ci possono sentire. Vabbè, senti, semmai proviamo a richiamare se non riusciamo a togliere questa cosa qui. Ti ringraziamo tantissimo. Ok, e in bocca al lupo per tutte le lotte che verranno. Siamo sempre tutte qua. Ciao, okay, grazie. Mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, riagganciandomi al discorso che stava facendo la compagna di Milano, certo, bisogna sempre ricordare anche che intorno ai CIE ci sono tantissimi interessi e lavorano tantissime ditte che hanno l'appalto della manutenzione e della gestione dei CIE. Citiamo le più importanti, quelle che si conoscono di più, la Croce Rossa, la Misericordia, l'Auxilium, e insieme a queste ditte che lucrano sui gli internati, sui migranti e le migranti, ci sono un mucchio di persone che lavorano per intorno ai campi, dalla polizia che va a prendere a caso per strada le persone, che fa opera di controllo, al personale civile, al direttore, a tutte le figure che forniscono il necessario per il funzionamento dei campi. Quindi c'è una miriade di gente che lavora su questo, che ha dovrebbe avere una consapevolezza e sicuramente sa quello che fa. E comunque non rifacciamo la stessa cosa che è successa con i campi di internamento e di concentramento, quando nessuno sapeva, nessuno vedeva e nessuno sentiva, però lavoravano per e intorno ai campi. Allora, un'altra considerazione che mi viene in mente è questa, che i CIE sono anche un momento molto alto del controllo del mercato del lavoro. Sì, non, infatti abbiamo, diciamo, declinato comunque comunque fatto una radiografia a questi CIE e abbiamo visto che appunto sono tante cose insieme, tra cui un sistema economico a sé stante, cioè una fonte appunto di introiti economici, e poi anche certo un modo per controllare il mercato del lavoro. Su questo, dato anche il poco tempo a nostra disposizione, cito un libro che noi abbiamo presentato qui, ma lo cito perché, insomma, avendolo letto è effettivamente molto interessante, che è Campi di forza di, non mi ricordo il nome, Sciurba, comunque si chiama di cognome, il titolo è Campi di forza, e analizza proprio tutti questi aspetti, diciamo, del CIE e in particolare la funzione di controllo del mercato del lavoro globale. I migranti servono, diciamo, proprio lì nei CIE, resi clandestini come merce a disposizione a seconda delle esigenze del momento, del mercato del lavoro. Quindi non è vero che li vogliono regolarizzare, che li tengono lì per fare appunto le cose, vedere chi può entrare, chi no, chi quello, chi quell'altro aiuta. Non è vero, servono proprio così come li hanno messi, e non è ma costituiscono anche arma di ricatto nei confronti di tutti gli altri lavoratori e lavoratrici, perché in effetti sono poi costretti a accettare di conseguenza condizioni di orario e di retribuzione proibitive, perché sono ricattati da una condizione dei migranti di semischiavitù, in effetti, no? Una nota quindi è che ciò che informa le leggi sull'immigrazione è la governabilità dei corpi, non solo dei migranti e delle migranti, ma di tutte e di tutti, allo scopo di garantire il massimo di produttività. In pratica l'obiettivo principale è sempre una maggiore appropriazione di ricchezza degli individui messi al lavoro. Allora, la consapevolezza di tutto questo ci porta a una considerazione, che infatti tutte quelle e tutti quelli che si occupano dei CIE, che vogliono la loro chiusura, la loro abolizione, che ne hanno colto l'essenza, sono oggetto di una particolare attenzione repressiva. Eh sì, sarà perché i CIE sono appunto, come dicevamo, uno snodo parecchio importante, insomma, di questo, del controllo sociale. E dunque a questo punto vi proponiamo una corrispondenza registrata nel pomeriggio per problemi di orario con una compagna di Noi Non Siamo Complici di Bologna, e ve la mandiamo senz'altro, e poi torniamo anche noi, o vuoi lanciarla? Sì, con no, qualche... è perché il 12 dicembre, cioè ieri, c'è stata la prima udienza, comunque l'apertura del processo ai compagni e alle compagne di Fuori Luogo, del centro di documentazione Fuori Luogo a Bologna, e i compagni e le compagne di Fuori Luogo sono stati particolarmente attivi, presenti, hanno dato un contributo grandissimo alla lotta contro i CIE, e questa attenzione repressiva non è casuale. Per questo vi mandiamo la corrispondenza della compagna di Bologna, che vi racconterà lei. Eccola. Allora, ciao, al telefono abbiamo una compagna di Noi Non Siamo Complici. Ciao, ci racconti quello che è successo ieri? C'era il presidio, vero? Sì, c'è stato il presidio. Allora, intanto la notizia importante da dare è che l'udienza che si doveva tenere ieri, che era, diciamo, l'udienza preliminare del processo contro le compagne e i compagni di Fuori Luogo, è rinviata al 29 febbraio. Durante tutta la mattinata si è tenuto questo presidio in Piazza del Nettuno, quindi nel pieno centro di Bologna. È stato un presidio molto partecipato, insomma, diciamo che nei momenti più alti eravamo più o meno un centinaio di persone venute anche da altre città. È stato fatto un banchetto con i materiali di Fuori Luogo, perché non dimentichiamo che Fuori Luogo era un centro di documentazione, perché è stato poi messo sotto sequestro e adesso non c'è più, insomma, è stato anche... È ancora sotto sequestro? Cioè, è chiuso? È stato proprio interrotto il contratto d'affitto, sì. Ah. Però c'erano appunto questi materiali, quindi la gente si fermava a vedere i libri, gli opuscoli, e quindi poteva anche rendersi conto, no, in quello che è stato spacciato per covo, che tipo di materiali invece informativi ci fossero. E certo. C'era c'erano anche tutti i libri della Biblioteca dell'Evasione, che sono questi libri, diciamo, che fuori luogo, come altre situazioni anarchiche, raccoglievano per mandarli poi in carcere alle persone rinchiuse. Questi libri, appunto, non avendo più uno spazio fisico in cui tenerli, sono stati messi su dei tappetini, insomma, uno striscione, non mi ricordo bene su cosa fossero appoggiati, e sono stati regalati alla gente. Quindi è stata una cosa molto bella da questo punto di vista, che ha fatto vedere che tipo di attività facesse il fuori luogo come centro di documentazione. Nel frattempo, naturalmente, si sono succeduti tanti interventi. Poca musica e tanti interventi, tanti contenuti, perché c'erano proprio tante cose da dire, e sia le compagne e compagni di fuori luogo, sia tutte le compagne e compagni solidali hanno avuto, insomma, qualcosa da raccontare. È notevole, è stato un intervento dei compagni bolognesi, che raccontano proprio cioè come ci sia una vera e propria persecuzione, diciamo uno stillicidio da parte della Digos bolognese nei loro confronti. Hanno raccontato tutta una serie di episodi che sono poi questo racconto è stato anche distribuito su un volantino intitolato Far West, dove appunto si raccontano episodi che vanno da ruote della macchina o delle biciclette bucate a continui fermi di compagni. Una compagna che nell'arco di pochi giorni è stata fermata per 5 volte, è stato Caspita. Il suo motorino, è stata aspettata sotto casa, insomma veramente delle cose incredibili. È stata una denuncia politica molto molto forte di fatti che si sapevano, nel senso che tra compagni circolavano queste informazioni, però adesso c'è stata proprio questa scelta politica di denunciarli, insomma, pubblicamente. E mi sembra molto importante, infatti. È molto importante. Io devo dire che ero sconcertata, perché nel sentire questa lista mi veniva in mente proprio il modello dello stalking contro le donne, no? Cioè, certo. Gli stalker incominciano ad accanirsi contro le donne. Tra l'altro c'è ora una compagna di fuori luogo che è particolarmente presa di mira, insomma sembra che a turno le prendano di mira un po' tutte, prima buttando su Stefania il massimo del discredito e costruendo di lei proprio la figura della strega per antonomasia, adesso invece c'è proprio un accanimento particolare nei confronti di questa compagna, che appunto è quella che è stata fermata varie volte di seguito. Cioè, sì. Non si può più muovere per Bologna, che viene bloccata. Nei confronti delle donne prende degli aspetti particolarmente odiosi questa cosa, esatto, poi. Esatto, infatti, per cui anche perché poi viene magari fermata a tarda sera, di notte, quando sta tornando a casa, e viene tenuta ferma per ore. Insomma, è molto molto pesante la situazione. Comunque il presidio è andato, devo dire, veramente molto bene. Io da tempo non vedevo un presidio così ricco di contenuti. E poi una volta concluso il presidio ci si è spostati tutte e tutti sotto al CIE, perché comunque non dimentichiamo che questa montatura, insomma, giudiziaria contro fuori luogo ha al suo centro la lotta che fuori luogo ha portato avanti per anni e costantemente contro i CIE. Cioè, ricordo che per anni e anni tutti i sabati le compagne e i compagni di fuori luogo andavano sotto al CIE. E infatti questo è molto importante. E hanno sempre anche avuto un numero di telefono, che poi è stato anch'esso sequestrato, che era il telefono di contatto con l'interno del CIE. Mentre eravamo sotto al CIE con la polizia in antisommossa che ci teneva sul bordo della strada, ovviamente non potevamo né utilizzare impianto né nulla, abbiamo utilizzato le nostre voci, i nostri fischi, insomma abbiamo fatto quanto più casino possibile per farci sentire, e alcuni immigrati, probabilmente che stavano nell'infermeria che dovrebbe essere la parte più vicina alla strage. Vi hanno sentito? Erano senza scarpe, per cui quello anche mi ha fatto pensare che fossero in infermeria. Sono riusciti a uscire dall'infermeria, insomma dalla stanza in cui si trovavano, e si sono messi a cavalcioni su delle ringhiere e insomma siamo riusciti a salutarci, a gridare insieme degli slogan libertà, libertà, e siamo rimasti di sotto un'oretta e mezza. Insomma è stato un momento veramente molto molto intenso che ha dimostrato, come dire, proprio praticamente quello che è stato in questi anni il percorso di Fuori Luogo. Io sono molto contenta insomma della giornata come è stata. C'era, devo dire, anche un bel clima tra tutti e tutte, cioè non c'erano tensioni, ma anzi c'era, oserei dire, quasi allegria, un po' l'allegria del ritrovarsi e un po' il fatto che sia stata proprio un'iniziativa, una giornata di iniziative costruita con l'apporto anche di tante persone, non solo di Fuori Luogo, e questo credo che abbia proprio contribuito a creare questo bel clima. Bene, questa è una cosa importantissima, tant'è vero che mi avevi detto che a quando hanno rinviato l'udienza? Al 29 febbraio. Bene, per il 29 febbraio vediamo di essere ancora di più allora. Esatto, sì, lì sarà importante perché comunque bisognerebbe anche capire poi cosa significa questo rinvio, cioè se il giudice vuole leggere o rileggere con calma gli atti, o se come dire, questi due mesi serviranno per mettere in atto delle ulteriori provocazioni e cercare di affibbiare delle altre denunce ai Fuori Luogo, anche perché tra le varie cose denunciate, diciamo, in questa serie di atteggiamenti da stalker, si parla anche proprio di oltraggi e reati completamente inventati, cioè cose che non sono avvenute e che sono invece però state denunciate. Sì, è una pratica che sta venendo fuori proprio da parte di impostarla in questo modo. Cioè è un sì, sì. Anche diciamo da qui a fine febbraio continuare a dare a Fuori Luogo la nostra solidarietà, a tenere alta la vigilanza anche su questo tipo di fatti e poi ecco presenziare, perché è molto molto importante insomma. Va bene, ti ringraziamo tantissimo, un saluto grande da tutte, un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao. Allora, proprio a questo proposito, le compagne femministe di Noi Non Siamo Complici, della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Collettivi e Singole di Roma, del Collettivo Femminista Magliana di Roma, il Gruppo di Lavoro Femminista contro i CIE e contro il Controllo Sociale e alcune compagne di Milano, hanno fatto un documento comune. Sì. Allora, ne leggiamo una parte, certo. Ovviamente. Care compagne, come compagne, scusate, femministe e lesbiche, ci schieriamo apertamente dalla parte di Fuori Luogo, perché con queste compagne e questi compagni abbiamo condiviso un tratto di percorso nella lotta contro i CIE, nel pieno rispetto delle reciproche specificità e senza dover fronteggiare alcun tentativo di egemonia. Perché per noi la vera associazione criminale è quella di chi devasta, saccheggia, militarizza e bombarda le vite e i territori in nome del profitto e degli interessi di pochi, perché siamo consapevoli del nostro essere fuori legge nel momento in cui abbiamo scelto di contrastare senza mediazione alcuna la violenza patriarcale dello Stato, dei suoi apparati e dei suoi servitori in divisa, perché non ci interessano né la spartizione del potere né le briciole istituzionali offerte alle donne per addomesticarle e farle complici di un sistema fondato sull'ingiustizia di classe e sul suprematismo razziale, perché sappiamo che la montatura orchestrata, i danni dei e delle Fuori Luogo è la prova generale della gestione repressiva del conflitto sociale che va allargandosi e radicalizzandosi, una gestione repressiva che non risparmierà nessuno e nessuna e davanti alla quale è eticamente urgente prendere una posizione netta ed esprimere solidarietà attiva a chi ne è attualmente colpita o colpito, perché come donne autodeterminate conosciamo fin troppo bene la strategia di intimidazione oppressione, criminalizzazione e repressione di chi non accetta di piegarsi alle norme dominanti. La storia della caccia alle streghe e dell'internamento delle donne ribelli ne è la testimonianza. Appunto, questa è una parte. Forse trovate questo documento e anche un interessante dossier, il famoso dossier ABC, e dico famoso per chi ascolta questa radio, nel blog di Noi Non Siamo Complici, che è noinonsiamocomplici.noblogs.org. questo, insomma, per dare delle coordinate ora che ci avviciniamo alla fine, insomma, della trasmissione. Piccolo stacco musicale. Lasciamo allora un poco spazio alla musica e sì, andiamo subito, la, tu subito pronta. È fitta, sì. Allora, sì. Diciamo che come donne femministe, lesbiche, compagne, abbiamo analizzato per tanto tempo la problematica della violenza di genere all'interno dei CIE, perché il trattamento delle donne nei CIE assume dei connotati di violenza di genere molto forte. Abbiamo fatto delle riunioni, ci sono stati dei tavoli separati, tra cui uno l'anno scorso a Torino, che è stato molto bello, e è stata analizzata proprio la violenza sulle donne nei CIE. Sono state tratte delle conclusioni che qui vi leggiamo, perché secondo noi sintetizzano molto bene, per linee generali, quello che è un discorso che andrebbe approfondito moltissimo, magari anche una trasmissione solo per quello. Sì. Allora, le donne all'interno dei CIE, la violenza sulle donne assume caratteri di genere molto forti. Perché? Perché le donne vengono solitamente isolate e sedate maggiormente, considerate, come al solito viene detto per tutte le donne, isteriche, incontrollabili e umorali, oltre ad essere di pericoloso eccitamento per gli internati maschi. Vengono sottoposte da parte del personale civile di polizia a continui ricatti di tipo sessuale. Ogni più piccola esigenza ha il suo prezzo. Il rapporto con il personale civile di polizia è di fatto sempre da prostituta a cliente. Alle donne internate non viene riconosciuta neppure la dicotomia santa o puttana che la società patriarcale riserva alle donne in generale. Perché le donne sono sempre e comunque bottino di guerra. Le donne internate sono per la maggior parte vittime di tratta o badanti domestiche irregolari, o che, per qualche motivo, pur lavorando anche da molto tempo in Italia, lo sono diventate, per esempio il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, la perdita del lavoro, eccetera. L'internamento e la deportazione delle vittime di tratta permette anche il rinnovo del materiale umano da mettere su strada. L'internamento della manodopera di servizio e di cura fa parte del sistema di controllo del mercato delle nuove schiave. La donna bianca e occidentale è così coinvolta nel mantenimento del sistema pur di avere a sua disposizione la serva che le permette di essere emancipata, e non ha nessuna intenzione di mettere in discussione questo mercato del lavoro e il relativo controllo. Le donne migranti che denunciano violenze sessuali vengono, invece che aiutate, internate con molta facilità nei CIE, perché la loro situazione è spesso irregolare per qualche motivo. Anche la concessione dell'articolo 18, che prevede la tutela delle donne soggette a tratta, è condizionata alla denuncia del percorso di tratta, dei protettori, delle maman, eccetera, cosa che le donne sentono come una costrizione alla delazione, con pericolo tra l'altro di vendetta nei confronti dei parenti nei paesi di origine. Ma fatto ancora più grave, dopo la delazione l'articolo 18 può non essere concesso, con pericolo di vita per la donna stessa. Quindi non possono esistere donne di serie A e di serie B, donne tutelate che poi corrispondono alle donne bianche nostrane e donne non tutelate che guarda caso sono straniere, irregolari, eccetera. Non ci si deve mai dimenticare che la detenzione amministrativa e non per reato apre scenari inquietanti nei riguardi dei soggetti non graditi a questo sistema, dalle migranti irregolari alle prostitute nostrane, dal senza tetto, senza garanzia di mantenimento o altro, il passo è breve. Gli stupratori sono sempre tali, sia che siano verdi, gialli, neri, a pallini o poliziotti. Non ci possono essere coperture, omertà, connivenze, opportunismi, distinguo, perché questo uccide la lotta contro la violenza delle donne e massacra le donne uccise e violentate un'altra volta. Il rifiuto della strumentalizzazione del corpo delle donne e della violenza sulle donne deve essere netto. Nessuna strumentalizzazione può essere accettata né per fini partitici, né di alleanze, né per interessi economici né per leggi securitarie. Questi esercizi di memoria che abbiamo fatto, ci colleghiamo con la consultoria di Milano, sì, per un'iniziativa che ci sarà domenica e che ci racconteranno. Sì, sguardi di genere, lotte e pratiche di donne dalla Val di Susa e dalla Palestina. Ciao Silvia, ci senti? Sì, sì, vi sento. Ciao, ciao. Ben trovata. Senti, raccontaci un pochino intanto di che cosa, insomma, andrete a parlare in questa iniziativa, come è nata, quello che vuoi, insomma, sull'iniziativa. Sì, certo. Allora, niente, questa è un'iniziativa che sarà la consultoria autogestita a Milano domenica 18 dicembre alle 15.30. Diciamo che l'idea di questa iniziativa innanzitutto è nata da un percorso di compagne tra Genova, Torino e Milano, che poi è un po' appunto questo nuovo gruppo che abbiamo chiamato REFE, cioè sì, Relazioni Femministe. È nata perché una compagna della consultoria tutti gli anni torna da un campo profughi dove va tutti gli anni, sia in Libano che in Palestina, e ci raccontava appunto di come è attualmente la situazione nelle donne nei campi profughi e anche di come resistono nel loro territorio proprio nella guerra vera e propria con Israele. E dato che alcune di noi, compresa me, invece avevano passato gli ultimi anni, in particolar modo quest'estate in Val di Susa, abbiamo trovato tantissime analogie tra le due lotte, sia per quanto riguarda il territorio, quindi la militarizzazione di entrambi i territori, sia sulle forme di resistenza e di solidarietà praticate dalle donne. Allora ci era sembrato importante, soprattutto in questo momento in cui in entrambi i paesi la lotta è molto viva e dove le donne sono in prima fila, forse più che in altri tempi, ci era sembrato importante parlare di questo e chiaramente in particolar modo delle lotte e le pratiche delle donne in questi paesi. E un punto cruciale, insomma, di cui parleremo sicuramente è il territorio e la difesa del territorio legato alla militarizzazione, perché in entrambi i casi appunto sono territori che sono o sottratti o comunque in qualche modo stuprati, insomma, e dove le donne sono in prima fila in una pratica di autodeterminazione, autogestione sia del quotidiano che nella lotta. Chiaramente vabbè, ci sono anche delle differenze per delle situazioni chiaramente politiche diverse, però noi rimarcheremo sicuramente le analogie. No, volevo dire che a noi è piaciuta tanto questa iniziativa anche per un motivo, perché adesso questo tipo di sistema neoliberista tende a fare una cosa, cioè ha un'impostazione per cui tantissimi ambiti, territori interni vengono trattati come colonie interne, no? C'è una sorta di colonizzazione interna e questa militarizzazione, di questa militarizzazione del territorio e colonizzazione interna, secondo noi fanno parte anche le strutture detentive di internamento e per questo ci è piaciuto fare riferimento alla vostra iniziativa. Eh sì, e poi richiama anche, cito questo perché l'abbiamo ospitata tutto l'anno scorso in diverse occasioni, le donne dell'Aquila, che anche loro hanno vissuto insomma una situazione di gestione, chiamiamola così, insomma, del post terremoto, che le ha viste veramente anche loro in un territorio completamente militarizzato e insomma. Benissimo, noi ti ringraziamo di averci insomma messo a parte di questa iniziativa, sicuramente sarà molto interessante, ci dispiace non poter venire, però insomma magari se poi esce qualche cosa o fate qualche racconto, senz'altro lo ospitiamo volentieri. Va bene, se noi riusciamo a registrare magari possiamo mandarvi magari la registrazione dell'iniziativa. Eh sì, credo che sia molto utile per tutte in qualsiasi territorio, comunque. Infatti. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Allora, ciao, al telefono abbiamo una compagna di Noi Non Siamo Complici. Ciao, ci racconti? Non ci posso credere, non il prossimo brano era la cosa già registrata, invece noi siamo con un'altra compagna che abbiamo al telefono per una corrispondenza di un'iniziativa che si tiene a Milano, organizzata dalle 25.11. Ciao, ci senti? Sì, ciao. Ciao, ben trovata. Allora, senti una cosa, prima di far parlare le 25.11, io vorrei sempre ricordare che loro si chiamano così perché il 25 novembre del 2009, vero se non mi sbaglio? Esattamente, Elisabetta, sì. Ecco, si sono prese le manganellate in piazza Cadorna perché avevano aperto uno striscione, comunque lottavano per la storia contro i CIE e per la libertà di Joy. È vero tutto questo? Ci fa molto piacere avervi qua. Grazie, grazie. Allora, ci racconti l'iniziativa vostra? Sì, certo. Allora, oggi è girato il comunicato di questa iniziativa che in realtà è un'iniziativa a varie tappe. C'è un appello che viene dai familiari dei dispersi partiti subito dopo la rivoluzione a bordo di barche diretti verso l'Italia. Come sapete, tanti sono arrivati, abbiamo assistito tutti alla questione. Senti, abbiamo dei problemi. Ma molti di loro, di circa 500 persone, questo è il dato, diciamo, raccolto attraverso appunto i familiari, comunque di queste 500 persone non si ha più notizia. Da lì i familiari di questi ragazzi tunisini si sono mobilitati in Tunisia per avere informazioni su cosa ne era stato dei loro figli, informazioni che hanno ricercato presso tutte le istituzioni ma senza ricevere ascolto. Senti, Mela. Hanno deciso di mobilitarsi e da qui l'appello che giunge fino a noi. Infatti il nostro comunicato si chiama proprio Da una sponda all'altra, perché cerca appunto di mettere in contatto i familiari di giù, il loro desiderio per la vita o quantomeno per sapere che cosa ne è stato, dove sono i loro figli, e detto questo Mela, scusaci, siamo da anni contro i CIE, contro le politiche di contenimento delle migrazioni con noi. Quindi da qui l'iniziativa, il primo momento in cui contemporaneamente nelle piazze di Milano. Allora, ci sono evidentemente dei problemi, prendiamo in mano la situazione e la richiamiamo immediatamente. E allora torniamo appunto in diretta. Ciao, ecco, niente, probabilmente ci sono dei problemi telefonici e stavamo parlando appunto di questa iniziativa. A questo punto vi chiediamo di dare l'appuntamento direttamente, poi ci sentiamo comunque nelle prossime settimane per approfondire meglio. Allora, l'appuntamento è per il 17 dicembre qua a Milano, nell'ambito della manifestazione in occasione della giornata mondiale di mobilitazione per i diritti dei migranti. Noi saremo all'arrivo della manifestazione in stazione centrale, sotto lo striscione da una sponda all'altra, Vite che contano, uno striscione che verrà contemporaneamente esposto nelle piazze di Milano, nelle piazze di Parma e nelle piazze di Tunisi. Ripeto che è un'iniziativa che organizziamo noi insieme a gruppi di donne tunisine e questa sarà una prima tappa. Da lì seguiranno altre iniziative nei mesi successivi in coordinamento con i familiari dei tunisini dispersi in Tunisia. Grazie tantissime. Benissimo, grazie, ti ringraziamo. A voi, scusa dei problemi tecnici e poi a questo punto ci aggiorniamo per seguire, insomma, il corso di queste mobilitazioni, di queste iniziative. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora, per chiudere, è importante ricordarsi una cosa, che le leggi sull'immigrazione e i CIE acquistano una rilevanza che va ben oltre il campo specifico e la posizione nei loro confronti è una cartina di tornasole per tutte e per tutti. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima.